Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige. A cura di Emanuele Cenghiaro. Da tempo si parla di rifiuti e della loro gestione come di una possibile risorsa per la nostra società, e in parte in realtà già lo sono. L'arte può aiutare a comprendere meglio questo concetto? Certamente sì, ed è quello che sta sperimentando SESA, la società Estense Servizi Ambientali, una società la cui quota maggioritaria è di proprietà del comune di Este e che si è venuta specializzando proprio nel riciclo dei rifiuti. Quest'anno SESA ha compiuto i 20 anni e sta celebrando proprio in questi giorni questo anniversario con una notevole mostra d'arte che ha come titolo Impatto 2.0, dove la parola impatto richiama fortemente la sostenibilità ambientale dei nostri comportamenti, che l'arte ci mette di fronte in modo a volte nudo e crudo, ma a volte anche facendoci vedere le cose da punti di vista inaspettati. Di tutto questo parliamo oggi con Lisa Celeghin, consigliere di amministrazione di SESA, ma soprattutto ideatrice e curatrice della mostra Impatto 2.0. La prima domanda che le vorrei fare riguarda l'azienda. Che cosa sta facendo SESA nel settore ambientale e perché la scelta di festeggiare i 20 anni con una mostra di questo genere? Innanzitutto buongiorno e ringrazio anch'io la vostra emittente. Allora, SESA S.p.A., Società Estense di Servizi Ambientali, opera nell'ambito della gestione del rifiuto ormai da un ventennio. Inizialmente nasce nel 1995 come impianto di smaltimento, poi nel corso appunto di 20 anni specializza la propria gestione attraverso il recupero, il riciclo del rifiuto e la gestione integrata, che parte sostanzialmente dalla raccolta differenziata del rifiuto che viene svolta dal singolo cittadino nell'ambito della propria del proprio mondo domestico, della propria attività familiare. E questa importante attività ha permesso all'azienda di trasformare il rifiuto in risorsa, quindi recuperare la materia, e di trasformare poi anche il rifiuto in energia rinnovabile. Infatti una della core business della società è proprio la trasformazione del rifiuto umido in biogas e di conseguenza in energia alternativa. Sì, so che uno dei vostri punti all'occhiello, uno dei fiori all'occhiello delle vostre attività è il biogas, ma anche il teleriscaldamento, anzi, che ha permesso di togliere anche una serie di caldaie da una zona di Este. Volevo entrare anche direttamente nel tema, perché oggi la stiamo intervistando perché è partita questa mostra molto interessante. L'arte incontra il rifiuto, non è una novità, nel senso che già dall'inizio del Novecento, forse già dal Dadaismo, c'è questa contaminazione, però oggi lo si fa in modo diverso. Cosa succede e perché l'arte ha questa particolare attenzione verso il rifiuto? Allora, se facciamo attenzione anche a quelle che sono le indicazioni delle politiche europee ambientali, sempre di più i paesi sono chiamati ad impegnarsi nel disporre politiche ed attività che siano in grado di ridurre gli sprechi e recuperare le risorse dal rifiuto. Il rifiuto rappresenta una grande criticità della società contemporanea, ma anche un grandissimo bacino di risorse a cui attingere materia per le nostre generazioni, ma anche per le generazioni future. Una società che si muove in questo ambito ha anche un compito fondamentale di trasferire l'importante attività che è il core business, che è la missione aziendale, ma che si trasforma anche in valore culturale nel momento in cui si svolgono dei processi che sono in grado di tradursi in principi di sostenibilità ambientale. Il ventennio ha offerto la possibilità di trasferire alla comunità locale, ma anche a un pubblico più esteso, questa importante missione. E la mia passione anche per l'arte, perché è un'attività che insomma parallela a cui dedico parecchio tempo, ha permesso di pensare ad un progetto artistico che potesse veicolare sia i valori aziendali, ma potesse anche raggiungere e trasferire il pubblico, sensibilizzandolo sulla necessità di assumere un rapporto diverso con il consumo quotidiano della merce e dei prodotti. Ecco, ci fermiamo per qualche minuto, torniamo in linea tra poco per parlare proprio specificatamente della mostra e quindi come si articola. A tra poco. Il quadrifoglio. Consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili. Quattro elementi per la nostra vita. Expensive car and an empty street. There's a wire in my jacket, for this is my trade. It only takes a moment. Don't be afraid, I can hotwire an ignition. Some kind of star, just a poor boy in a rich man's car. Et le moteur s'allume enfin, nos vies s'enlacent. We drive into the night. Torniamo in linea con Blu Radio Veneto e con la trasmissione Il Quadrifoglio. Oggi stiamo parlando con Lisa Celeghin, consigliere di Sesa, ideatrice e curatrice della mostra Impatto 2.0 che si sta tenendo in questi giorni a Este. E come si articola, dottoressa, questa mostra? Sappiamo che si articola in più sedi e parte dal Museo Archeologico Testino. Sì, insomma, l'idea era quella di proporre un progetto espositivo a tappe che in qualche modo permettesse di conoscere anche il ricco patrimonio artistico e architettonico della nostra città. E quindi l'idea di interessare più sedi si è poi sposata con la volontà di approfondire il tema della questione ambientale attraverso alcuni focus. Ecco che allora il Museo Nazionale a Testino ospita una rassegna, un'esposizione legata alle poetiche dell'oggetto del Novecento, che ha sostanzialmente la volontà di presentare il complicato e articolato rapporto dell'uomo contemporaneo con l'oggetto di consumo. E questo rapporto è stato affrontato dalle poetiche del Novecento come il Nurrealism, come la pop art, come l'arte povera, secondo attraverso diverse sfaccettature, recuperando quella che era sostanzialmente la tradizione della grande avanguardia artistica dei primi del Novecento, che è stata il Dadaismo. Gli spazi espositivi prestigiosi del museo, il fatto stesso che il Museo Nazionale a Testino accolga i reperti archeologici che hanno fatto parte della quotidianità del mondo antico paleoveneto, di cui la città di Este trova le proprie radici, sembrava essere un'occasione per creare un dialogo tra antico e moderno e mettere in relazione le abitudini e i comportamenti dell'uomo contemporaneo con i relativi comportamenti dell'uomo antico. Mentre nelle altre sedi espositive invece c'è spazio per il contemporaneo anche dell'arte. Ecco, sì. Poi le altre sedi, la Pescheria Vecchia e la Chiesetta di San Rocco, affrontano il tema del delicato rapporto dell'uomo con l'ambiente, dell'uomo con l'oggetto di consumo, secondo punti di vista diversi. La Sala della Pescheria Vecchia ospita opere dal taglio molto concettuale e attraverso le opere di artisti che hanno un profilo internazionale, affronta il delicato rapporto appunto dell'uomo con l'ambiente, attraversando alcune tematiche che rappresentano delle criticità del nostro tempo contemporaneo, come può essere ad esempio la grande tematica della deforestazione globale, la tematica dei cambiamenti climatici, oppure attraverso le opere di artisti che hanno una vocazione più poetica e intimistica, si affronta anche il problema magari del recupero di un rapporto più armonioso dell'uomo con la natura. In chiesetta invece di San Rocco si è dato spazio principalmente al rapporto critico del quotidiano dell'uomo con l'oggetto d'uso, e quindi prende un po' vita questo comportamento attuale dello spreco, dell'accumulo, della materia, dell'oggetto, delle merci e del poi svuotamento dell'oggetto del proprio senso una volta utilizzato e una volta sfruttato la materia. Attraverso la capacità degli artisti, la materia che era destinata alla distruzione riacquista una valenza non solo di grande utilità, ma addirittura estetica. E questo percorso che porta l'oggetto usato destinato allo smaltimento e alla distruzione alla possibilità di una nuova vita e di una reinterpretazione, penso sia un'attività insomma, di grande valore. E l'arte in questo percorso ha proprio un compito quasi educativo, di insegnare alle generazioni attuali come insomma da una materia priva oramai di senso e di valore si possa trovare una nuova bellezza e una nuova utilità. Ecco, allora invitiamo anche gli ascoltatori ad andare a visitare sia Este sia attraverso appunto il percorso di questa mostra, conoscere la bellezza di quella cittadina e anche riflettere sulla sostenibilità ambientale. Dobbiamo chiudere purtroppo perché il tempo è poco, volevo però ricordare fino a quando è visitabile questa mostra e eventualmente se c'è un sito internet dove poter avere maggiori informazioni. Sì, allora la mostra è visitabile fino al 1° novembre ed anzi questa è una data molto importante perché ogni prima domenica del mese i musei, gli enti museali permettono anche l'ingresso gratuito, quindi c'è anche questa bella opportunità di poter visitare la mostra del museo a costo zero. E poi mi diceva un sito internet? Il sito internet, allora sul sito di Sesa potrete trovare uno spazio dedicato alla, all'iniziativa e poi c'è anche il sito di Art Connection che ci ha seguito con la comunicazione dove potete trovare tante altre informazioni. Benissimo, allora fino al 1° novembre ad Este la mostra Impatto 2.0. Grazie. Grazie a voi. Salve. Chiudiamo qui questa trasmissione, vi ringraziamo di averci ascoltati e vi diamo appuntamento con il Quadrifoglio la prossima settimana. Ci potete riascoltare sul sito internet www.bluradioveneto.it. Avete ascoltato il Quadrifoglio, consumo critico, agricoltura, ambiente, energie rinnovabili, quattro elementi per la nostra vita. In collaborazione con ARCAV, Associazione Giornalisti Agroambientali di Veneto e Trentino Alto Adige.